A noi popolo non ci cagano proprio, quindi non vale la pena neanche a votare, non andate a votare! Lo scorso 4 marzo lei è andato a votare? No, io non voterò più! Signora, i limoni, signora!